172. Frittelle di polenta alla lodigiana. Latte mezzo litro, farina gialla, grammi 100. Fatene una polenta e prima di ritirarla dal fuoco salatela. Così a bollore versatela sulla spianatoia e con un coltello da tavola intinto nell'acqua distendetela alla grossezza di mezzo dito scarso. Ghiaccia che sia, servendovi dello stampino della ricetta numero 182 o di altro consimile, tagliatene tanti dischi che riusciranno 30 o 32 se vi aggiungete ritagli, impastandoli e schiacciandoli con le mani. Questi dischi appaiateli, mettendovi in mezzo una fettina di gruyera per ottenere così da 15 a 16 frittelle. Frullate ora due uova, che tante occorrono per poterle dorare con queste e col pan grattato, e friggetele nello strutto o nell'olio. Servitele calde per contorno ad un arrosto.